l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 31 ottobre, qua siamo qui come ogni settimana per raccontarvi l'Europa, delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità, un programma in collaborazione con Euronet Plus Network di Radio Europee. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: euronetplus.eu, il portale del network, oppure radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata e trovare tutti i contributi extra sulle pagine dell'Altra Europa, o ancora Facebook e Twitter, bacheche digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Chiocciola Federico Taddia al mio account personale, oppure chiocciola Euronet Plus R24. Ogni sabato un viaggio, oggi si parte da una chiusura. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. 31 ottobre, ultimo giorno di Expo, sei mesi intensi, sei mesi che abbiamo seguito in tanti incontri, in tanti collegamenti, in tante presenze anche di Radio 24 con i suoi live, e noi abbiamo seguito soprattutto le attività dell'Unione Europea all'interno del padiglione. Quindi abbiamo l'onore di ritrovare qua Matteo Fornara, direttore del padiglione dell'Unione Europea a Expo 2015, con il quale fare un po' un consuntivo di questa comunque bella e grande e importante esperienza. Ciao Matteo, ben ritrovato. Salve, buongiorno a tutti. C'è aria di festa? Beh sì, c'è aria. Sembra l'ultimo giorno dell'anno, Natale, un po', soprattutto tra le persone dello staff che anche con un po' di malinconia domani o stasera lasciano il sito. Certo, tra l'altro ricordiamo, perché insomma c'erano anche degli aspetti di costume ovviamente legati ad Expo, che la terrazza del padiglione dell'Unione Europea è stata una delle più ricercate e gettonate di questo Expo, vero? Sì, perché noi siamo proprio sopra l'albero della vita. Diciamo che negli ultimi due mesi, da quando l'affollamento di Expo è diventato straordinario, anche la nostra terrazza è stata molto richiesta, perché gli show della notte, che poi tra l'altro si trovano su quasi tutte le pagine Facebook delle persone che sono venute qui, sono stati veramente spettacolari. Mm-hmm. E Matteo, i numeri di questa vostra esperienza: 600.000 visitatori che sono entrati nel padiglione dell'Unione Europea. Un po' di più. Ah sì, addirittura. Arriviamo a 650.000. Ok. Alla fine. Quasi 230 eventi scientifici, 840 volontari, oltre 4.000 richieste. Questi sono i numeri. In verità, cosa si porta a casa l'Unione Europea da questa Expo? Beh, è stata, credo, una straordinaria occasione di comunicazione, perché questi numeri sono importanti. Non tutte le campagne di comunicazione della Commissione o delle istituzioni europee raggiungono questi numeri diretti, cioè questa non è una campagna virtuale. Qua abbiamo avuto, come hai detto tu, oltre 600.000 persone che sono entrate nel nostro padiglione, hanno visto il nostro cartoon e hanno probabilmente, speriamo noi, recepito il messaggio, tant'è che i primi risultati anche in termini di valutazione sono positivi. Abbiamo oltre il 90% di apprezzamento positivo del nostro padiglione e due terzi delle persone che sono uscite dicendo di saperne di più su quello che l'Unione Europea fa per il cibo e per l'alimentazione. E poi i volontari, una sorta di piccolo Erasmus. Sì, i volontari sono stati straordinari, ne abbiamo avuti anche qui oltre 800, un numero importante, hanno fatto dei turni di due settimane, che gli hanno consentito, un periodo che gli ha consentito di non annoiarsi e poi di dare il meglio per attrarre le persone. Quello, forse il lato più importante però, è quello che noi abbiamo la sicurezza, la certezza che loro continuano a essere in community, continuano a essere legati tra di loro, e quindi si sono creati dei legami che speriamo continueranno nelle loro carriere universitarie. universitari e professionali, non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutti i paesi. Abbiamo avuto circa 40 nazionalità coinvolte, anche da paesi molto lontani. Quindi questa è stata un'esperienza soddisfacente per loro, ma soprattutto per noi, perché abbiamo dato, diciamo, una ventata di freschezza al nostro padiglione, che era uno dei grandi obiettivi nostri. Eh sì, poi è vero, insomma, ho chiacchierato con molti di loro, c'era proprio questa voglia, certezza di portarsi a casa contatti, contaminazioni e anche occasioni, sì. Perché molti hanno avuto proprio la possibilità di mettere il naso in altre nazioni, in altre padiglioni, anche lasciare curriculum, mi dicevano. Sì, qualcuno di loro ha tentato anche di portare a casa i maiali sul decumano. Ah, nelle, ecco, questo no, questo mi mancava. Come. Però vabbè, questi sono gli effetti collaterali, sono stati bloccati agli ingressi dell'Expo, ma sì, a parte gli scherzi, sono stati molto... cioè per loro è proprio un'occasione di trovare contatti anche con le istituzioni, con un po' col mondo comunitario diretti, diciamo, che poi potranno servirli. Certo. Ma tu invece un'ultima riflessione sull'aspetto scientifico, perché 230 sì. eventi è un'occasione sì. veramente di approfondimento sì. importante. Diciamo che il fatto che la partecipazione dell'Unione Europea Expo sia stata coordinata dal Centro Comune di Ricerca, che è il braccio scientifico della Commissione Europea, che ha il suo sito principale a Ispra, sul Lago Maggiore, è stato importante, perché proprio ha messo in prima linea l'aspetto scientifico. Questo ha contribuito anche, diciamo, alla legacy di Expo, perché con la Carta di Milano e con tutte le altre, gli altri impegni che sono stati presi a Expo, che noi speriamo possano continuare, noi abbiamo avuto legami stretti, abbiamo contribuito. Ci sono venuti qua 14 commissari europei, alcuni diverse volte, circa quasi 100 parlamentari europei e autorità di tutti, di moltissimi paesi. Abbiamo avuto una decina di capi di Stato e di governo nel padiglione, quindi anche da quel punto di vista, cioè, noi pensiamo che questo contributo scientifico che diamo al dibattito che abbiamo dato durante Expo possa veramente contribuire, diciamo, a far riflettere sulla necessità di adattare le politiche sull'alimentazione anche a livello europeo a quelle che sono le nuove sfide che sono state identificate, certo, qua a Expo. Per andare oltre Expo. Grazie certo. davvero, Matteo, insomma, complimenti per questo ottimo lavoro. Ti lasciamo agli ultimi spettacoli di oggi dell'Albero della Vita. Ciao, grazie. Sì. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Adesso ci fermiamo, un Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Segni d'infanzia. Attenzione mamme, papà, zii, insegnanti e chiunque abbia bambini e ragazzi dagli 0 ai 18 anni, perché a Mantova è in corso la 10ª edizione di Segni d'infanzia e oltre, il Festival Internazionale d'Arte e Teatro per le Nuove Generazioni, che quest'anno ospita oltre 200 eventi e artisti da oltre 7 paesi diversi. Grazie anche alla collaborazione con l'Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento Europeo, Agenzia Giovani, le ambasciate di Francia e Norvegia, il MIBAC e molti altri partner, Segni d'infanzia offrirà a bambini e ragazzi spettacoli di importanti compagnie nazionali e internazionali, oltre a laboratori, percorsi didattici e seminari. L'animale simbolo di quest'anno è il pipistrello. Per informazioni, prenotazioni e programma visitate il sito segnidinfanzia.org. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta l'altra Europa. Food innovation has come a long way, but would you fancy eating crickets? How about algae and chia seeds? New rules governing novel foods have been a long time coming. The current legislation dates back to 1997. It opens doors to possibilities to help. Continuiamo a parlare di cibo, questa puntata dell'Altra Europa, perché è stata una settimana importante. Due le notizie che sicuramente conoscete: la prima, l'allarme lanciato dall'Agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha annunciato che ci sono prove consistenti circa l'aumento del rischio legato ai tumori per chi consuma carni rosse e lavorate, e ancora invece l'apertura del Parlamento europeo verso i nuovi cibi, gli insetti, le alghe. È arrivato l'ok da Strasburgo, adesso si aspetta un via libera dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Due tematiche importanti e ne parliamo con un esperto di tutto questo. Diamo il benvenuto a Marino Niola, ordinario di antropologia e direttore del Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ciao Marino, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie. E abbiamo sentito due allarmi che di fatto hanno riportato, ce n'è sempre bisogno, hanno riportato l'importanza e il focus sulla dieta mediterranea, un po' come risposta, un po' come alternativa. E volevo appunto capire qual era il tuo pensiero e quanto la dieta mediterranea oggi rappresenti un'identità per questa Europa. Rappresenta sicuramente un'identità la dieta mediterranea per l'Europa, un'identità sostenibile soprattutto, un'identità responsabile e una grande risorsa per il futuro, perché senza bisogno di arrivare alle cavallette che probabilmente da flagello biblico si stanno trasformando secondo alcuni in manna dal cielo, sì. Senza arrivare alle cavallette, con la dieta mediterranea è possibile nutrire il maggior numero di persone con un cibo sano e con un cibo anche buono da mangiare, perché non basta che il cibo sia sano, visto che il cibo non è una medicina, non è un farmaco, ma deve essere anche buono da mangiare, buono, pulito e giusto, direbbe qualcuno. E voi avete concluso da poco anche un progetto europeo proprio per rilanciare la dieta mediterranea, e non solo, state lavorando a un importantissimo convegno che ci sarà tra una decina di giorni per festeggiare, se non erro, i 5 anni da quando la dieta mediterranea è entrata come patrimonio UNESCO. Esattamente, il 16 novembre all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, insieme al Ministero delle Politiche Agricole e all'UNESCO, si organizza un convegno proprio sulla dieta mediterranea UNESCO. Il titolo del convegno è Un patrimonio responsabile, innovazione, identità, contraffazione. Contraffazione perché di fatto la dieta mediterranea è imitatissima, soprattutto i prodotti italiani sono imitati in tutto il mondo, i supermercati di tutti i continenti sono pieni di prodotti che hanno un suono italiano ma che non sono fatti in Italia, e questo è un grande danno per i produttori, ma nello stesso tempo però è una controprova dell'altissimo valore aggiunto che ha il prodotto Made in Italy. Certo. Marino, ma queste notizie, le cavallette e gli insetti da una parte, gli insaccati e la carne rossa dall'altra, sono di quelle notizie che portano consapevolezza, portano contenuti o portano solo allarmi, repentini, cambi di abitudine e poi appunto nel giro di poche settimane si torna tutto come prima? Ho l'idea che spesso siano dei polveroni o possono diventare dei polveroni, se non altro per la maniera in cui certi dati scientifici vengono divulgati, e si sa che il polverone fa bene agli insetti, però diciamo che alcune cose si sapevano già da tempo, che un eccesso di carni rosse faccia male, che la carne bruciata e carbonizzata fa molto male, proprio non a caso come la mangiano negli Stati Uniti. E questo si è sempre saputo, che un eccesso di insaccati non bisogna mangiarlo perché fa male, e quindi voglio dire, è un po' come la scoperta dell'acqua calda. Probabilmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inteso ribadire certi concetti che però si conoscevano in parte, forse perché in molti paesi del mondo queste conoscenze e queste, come devo dire, questo tipo di educazione alimentare fa fatica a penetrare, ma allora i destinatari di questo messaggio non siamo tanto noi mediterranei, che bene o male ce la caviamo, ma altri paesi. Del resto basta andare in qualunque albergo la mattina al breakfast e vedere come si alimenta un italiano, uno spagnolo, un greco, anche un francese nonostante tutto, e come invece mangiano i nord europei, gli scandinavi, gli americani. C'è una differenza abissale, certe volte viene davvero da pensare. Certo. Allora bisogna chiedersi chi sono i veri destinatari di questo, e poi in ogni caso questi allarmi vanno sempre presi così, con un minimo di beneficio all'inventario, vanno reinterpretati e in fondo poi non esistono cibi killer, neanche la carne è un cibo killer. Marino, oggi chiude l'Expo che tu hai frequentato, è stata un'occasione riuscita per fare cultura del cibo e per fare in particolare cultura della dieta mediterranea? È stata un'occasione per fare cultura del cibo, sicurezza del buon cibo, molto spesso è stata più che altro una successione di ristoranti e di gourmandise. Non so quanto questo poi abbia a che fare con il grande tema come nutrire il pianeta, ma questa è un'altra considerazione. Sul piano dei numeri è stato un successo. Per la dieta mediterranea è andata molto bene, perché il Ministero ha organizzato un'intera settimana, il Ministero delle Politiche Agricole, sempre sulla dieta mediterranea, dal 14 al 20 settembre, e a inaugurarla siamo stati proprio noi del Medit Research del mio centro, che abbiamo presentato la nuova piramide universale della dieta mediterranea, che di nuovo, rispetto a tutte le piramidi che riducono il cibo solo a proteine, carboidrati, grassi, alla base della piramide noi abbiamo messo non sette alimenti ma sette comportamenti, cioè sette buone pratiche, fra le quali ovviamente il movimento, ma anche il cucinare insieme. C'è un elemento che si chiama together. Cucinare insieme vuol dire maschi e femmine, vuol dire che la cultura del cibo va insegnata a scuola nei primi anni dell'apprendimento, e che bisogna uscire anche da quest'ottica che a cucinare sono solo le donne. Certo, e il cibo diventa comunque cultura quando diventa esperienza condivisa, sennò sì, finché è esperienza individuale. E poi ovviamente la convivialità è un altro degli elementi base. Non a caso quando l'UNESCO ha riconosciuto la dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, non ha riconosciuto i prodotti, ma gli stili di vita, e alla base di questi stili di vita c'è la convivialità. Perché noi, come diceva Plutarco già 2000 anni fa, non ci sediamo a tavola per mangiare, ma per mangiare insieme. E questo dice tutto. Grazie davvero Marino Gnola, e l'appuntamento appunto al convegno fra un paio di settimane, ma ne daremo sicuramente ancora notizia qui all'Altra Europa. Ciao e grazie, buon lavoro. Ciao Federico. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. Oh, ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head, you in my heart. La sostenibilità, parola chiave fino ad ora in questa puntata, lo è stato per Expo con il padiglione dell'Unione Europea, lo è stato nelle parole di Marino Gnola, lo è il cuore anche del prossimo progetto di cui andiamo a parlare. Lo facciamo con Massimo Bellavista, direttore dell'OP Bellaria Pesca. Buongiorno Massimo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, andiamo con te a parlare di un progetto Eco Adria Fisherman. Si parla di pesca, si parla di un nuovo approccio al mare. Che cos'è questo progetto? Si parla innanzitutto di Guardiani del Mare. Il progetto è un progetto pilota che ha mirato appunto a individuare, sperimentare delle condizioni di riconversione professionale dei pescatori nel mare Adriatico. Sono state analizzate nell'ambito del progetto la fattibilità e la potenzialità di sviluppi di nuovi servizi in campo ambientale, in campo turistico e in campo culturale. Abbiamo realizzato questa attività per diversi mesi appunto, e abbiamo verificato che tutto sommato un pescatore potrebbe anche pescare un pochino meno e svolgere altre attività di servizio sia agli altri pescatori, ma anche di servizio per tutta la collettività. Certo, Massimo, ma chiedo scusa, pescare meno perché ci sono troppi pescatori, c'è troppo poco pesce per trovare e dare un altro equilibrio al mare? da anni l'Europa ha sviluppato e promosso la politica comune della pesca proprio per garantire le risorse anche alle future generazioni. C'è la necessità di pescare meglio sicuramente e sicuramente anche meno rispetto a alcuni stock ittici a cui appunto sono assegnate delle quote di pesca e dei quantitativi che sono contingentati, ma ovviamente dobbiamo comunque garantire un'occupazione, uno sviluppo economico produttivo alle imprese di pesca. Per questo motivo abbiamo realizzato Ecoadria Fishermen. Ecoadria.it, il sito, hai parlato di riconversione di questi pescatori, in cosa? Ci puoi fare qualche esempio? Sì, grazie appunto ai nostri partner di progetto, quindi la Lega Pesca, la Lega Coop, il Comune di Bellaria e Gemarina, abbiamo sviluppato dei servizi in campo ambientale per quanto riguarda il monitoraggio delle acque e degli impianti di mitilicoltura in Emilia Romagna. Abbiamo realizzato questo servizio in collaborazione con le aziende sanitarie locali e, terminato il servizio, abbiamo partecipato a una gara di appalto per garantire appunto a questo pescatore riconvertito una sostenibilità di sviluppo del servizio. Il pescatore coinvolto, sì, oltre ad aver rinunciato alla sua licenza di pesca proprio per sviluppare queste attività, ha anche messo a disposizione la sua imbarcazione, che è stata totalmente ristrutturata e adeguata per dare questi servizi ambientali, ma non solo a servizi ambientali, ma anche raccolta rifiuti, per esempio, oppure accompagnare i turisti in mare aperto a vedere un po' le attività che vengono svolte sia nell'ambito della pesca sia nell'ambito della molluschicoltura, perché noi a Bellaria abbiamo degli impianti di molluschicoltura molto importanti. Il pescatore è un po' sospettoso nel vedervi mettere le mani sulla sua imbarcazione? Assolutamente sì, c'è stato molto scetticismo, però è stato molto coraggioso, ha seguito le nostre attività, perché prima di metterlo appunto in cattedra, tra virgolette, perché così è stato, perché poi con le scuole abbiamo coinvolto 400 studenti, è andato in classe, ha spiegato un po' tutte la tradizione marinara, le attività della pesca. Comunque, dicevo, prima di mandarlo sul campo sono stati fatti tutta una serie di studi di fattibilità, analisi di mercato e soprattutto della formazione per questo pescatore che veniva riconvertito verso altre attività. Adesso devo dire che è molto contento e soddisfatto, non solo perché è stato messo al centro dell'attenzione, ma perché non solo lui ma anche tutta la marineria di Bellaria e Gemarina ha capito che ci sono delle possibilità di futuro. Certo, complimenti, grazie davvero a Massimo Bellavista, ecoadria.it il sito per tutte le informazioni. Ciao, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Tirocinio BCE. Sei interessato al mondo delle banche e sei alla ricerca di un'esperienza lavorativa internazionale? La Banca Centrale Europea offre un tirocinio retribuito nel suo ufficio legale con sede di lavoro a Francoforte. L'ufficio legale della BCE contribuisce a portare avanti i progetti nel campo della supervisione dell'attività bancaria e aiuta a implementare le politiche comuni dell'area euro. Il tirocinante dovrà preparare e tradurre gli atti nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea, revisionare i testi giuridici e assistere gli avvocati linguisti francesi nella revisione delle prove cartacee e altri contesti legali. Le candidature dovranno essere inviate secondo le modalità descritte nella sezione tirocini del sito ufficiale della BCE, ecb.europa.eu. Ma attenzione, hai tempo solo fino al 5 novembre. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, euronetplus.eu, radio24.it, i nostri siti di riferimento, oppure Facebook e Twitter, euronetplusr24 o il mio account personale, @ Federico Taddia. Andiamo a parlare adesso di un'importante associazione internazionale, no profit e non religiosa, che si occupa di difesa, protezione e conservazione del patrimonio artistico e architettonico legato ai luoghi di culto in Europa. Diamo il benvenuto ad Alessandra Flora, detta stampa di FRH, Future for Religious Heritage. Ciao Alessandra, buon sabato e benvenuta all'altra Europa. Ciao Federico, grazie e buon sabato a tutti. Allora, è un'associazione importante, conta 160 membri in tutta Europa, ma anche con varie costole extra europee. Il patrimonio artistico è al centro delle vostre attività, che vengono svolte in diversi modi. Si è appena concluso un importante progetto europeo, state lanciando una app. Chi siete e cosa fate? Allora, FRH, Future for Religious Heritage, è un'associazione, come dicevi tu, una ONG con sede a Bruxelles, e tra i nostri membri sono ben 160 in tutto il mondo. Ci sono università come quella di Leuven in Belgio, Gothenburg in Svezia, anche quella di Oslo, poi abbiamo l'importante fondazione La Sauvegarde de la France a Parigi, piuttosto che la Church Conservation Trust in Inghilterra, ma anche per esempio la Fondazione per il Patrimonio Ebraico, anch'essa inglese. E il 90% dei nostri membri si trova in Europa. Il nostro obiettivo è proteggere il patrimonio europeo, il patrimonio religioso legato ai luoghi di culto, che è composto da circa 500.000 luoghi di culto, tra cui chiese, monasteri, sinagoghe, moschee, che rappresentano il più grande museo d'Europa e che molto spesso rispetto ad altri musei è visitabile gratuitamente. Quindi noi non ci occupiamo per esempio della cattedrale di Notre Dame o della Cappella Sistina, che già possono avvalersi di restauri importanti e di sostegni economici continui, ma ci occupiamo anche di piccole realtà, di chiese di montagna, di sinagoghe sperdute per esempio nelle campagne dell'est europeo, affinché non chiudano o non vengano abbandonate o addirittura non vengano abbattute, come ad esempio accade in Olanda, perché è un paese in cui sicuramente con una elevata secolarizzazione, in cui le persone spesso non vanno più in chiesa chiaramente per motivi religiosi, per cui c'è proprio il rischio che queste realtà vengano chiuse e abbattute per creare ad esempio parcheggi o centri commerciali. Ma realtà che vi vengono segnalate dalle singole parrocchie, dai singoli cittadini, dai singoli comuni, come vengono catalogate, come vengono catalogati questi luoghi che voi scegliete di proteggere? Sì, questi luoghi ci vengono segnalati chiaramente dai nostri membri. Noi, proprio attraverso i nostri membri presenti in tutta Europa e in tutto il mondo, sono per esempio fondazioni, sì, diocesi, piuttosto che musei, che ci segnalano le realtà che sono a rischio di degrado, di chiusura, anche per motivi economici. Chiaramente stiamo vivendo una grande crisi economica e quindi il patrimonio artistico, architettonico è a rischio, perché rischia di essere degradato, sì, comunque abbandonato. Per cui noi ci occupiamo anche del riuso, che è un tema abbastanza controverso, cioè è meglio che una chiesa sia chiusa per sempre o abbattuta per costruire un parcheggio, oppure che venga invece restaurata e magari adibita ad altri usi, per esempio per svolgere conferenze, concerti, incontri dedicati per esempio ai giovani. Tra i nostri membri per esempio c'è Art Live in Churches, che è un'associazione che promuove proprio laboratori di pittura e scultura per i giovani dell'est dell'Inghilterra all'interno delle chiese, che molto spesso sono chiuse e che altrimenti non avrebbero più un ruolo all'interno della loro comunità. Ho capito. Alessandra, tra i nuovi progetti in corso c'è Religiana, un prototipo di app. Qual è la sua finalità? Sì, possiamo definirla un'app, no? In realtà è un ambiente internet che è accessibile direttamente online, e è un progetto pilota che dà informazioni pratiche sui luoghi di culto in Europa, quindi per esempio informazioni sugli orari di apertura e di chiusura, perché sappiamo che molto spesso le chiese sono chiuse o aprono in orari a volte un po' improbabili, e quindi è proprio un'app dedicata ai turisti, che chiaramente non soltanto turisti religiosi, ma anche privati cittadini che sono in viaggio e che si recano per visitare un luogo, un paese, un villaggio, e la prima cosa che fanno è andare a vedere se c'è un monastero o una cattedrale o una chiesa da visitare, o per esempio anche siti di altre religioni, e per cui in quel caso è possibile informarsi sia sugli orari di apertura e di chiusura, ma anche sulle attività culturali che si svolgono all'interno di questi luoghi di culto, quindi non strettamente religiosi, e poi chiaramente anche su attività di tipo concerti, conferenze. Ma la cosa importante è che Religiana per la prima volta si occupa delle donazioni. Questo è un tema abbastanza importante anche alla luce del giubileo che si svolgerà a Roma a breve, e quindi l'obiettivo è quello di creare, dare la possibilità all'utente di fare delle donazioni tracciabili e trasparenti. Quando pensiamo alla donazione pensiamo soltanto alla possibilità di dare qualche moneta all'interno di una cassetta custodita all'interno di una chiesa, sì. Ma questo chiaramente non è sicuro, non è tracciabile. Invece attraverso questa app sarà possibile proprio in futuro, attraverso chiaramente degli accordi che stiamo facendo con i singoli paesi per individuare tutte le possibilità chiaramente a livello fiscale, di fare donazioni in tutta trasparenza. Quindi si potrà donare un euro o un milione di euro per il restauro di una chiesa, però avendo poi la possibilità anche di detrarre chiaramente queste donazioni dalla propria dichiarazione dei redditi. Certo, insomma, un abbraccio tra culto e cultura molto importante per difendere questo che tu giustamente hai definito il più grande museo d'Europa. Ci vuoi dare i siti di riferimento per tutte le informazioni? Sì, dunque il nostro sito è www.frh-europe.org e invece il prototipo di Religiana è visibile sul sito mobi.religiana.it. Vorrei anche citare un altro progetto che è appena partito, che è Europe Tour, un progetto di ricerca e analisi, questo è finanziato nell'ambito di Erasmus Plus e che vedrà il coinvolgimento di alcuni paesi, in prima battuta Austria, Germania, Polonia, Romania e poi anche l'Italia con la regione Marche e la Spagna con la regione Cantabria, per definire i bisogni di professionalità e formazione delle reti turistiche culturali, quindi perché riteniamo che il turismo sia veramente una leva importante anche per poter creare posti di lavoro e crescita, e il turismo religioso è veramente un settore su cui si può puntare in esatto futuro. Anche con competenza, quindi giustamente con bisogno e necessità di formazione. Grazie davvero ad Alessandra Flora, ciao e buon lavoro. Grazie, a presto. Adesso ci fermiamo, un Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Genova, porta del mondo. Dal 26 ottobre il Jacques Delors Building di Bruxelles ospita la mostra Genova, porta del mondo, voluta dall'autorità portuale di Genova per raccontare la storia del porto della città in occasione di Expo. Genova, porta del mondo fornisce un ritratto del passato, del presente e del futuro del porto di Genova, unendo idealmente le storie di due illustri genovesi, Cristoforo Colombo e Renzo Piano. In mostra molti documenti, immagini, curiosità e diversi progetti di sviluppo creati da Renzo Piano, tra cui il blueprint e il rendering della nuova torre piloti. Genova Porta del Mondo è cofinanziata dall'Unione Europea nell'ambito del progetto Rete Transeuropea di Trasporto. Sarà visibile a Bruxelles fino al 13 novembre. Per informazioni, porto.genova.it. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta l'altra Europa. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time that I return. Abbiamo parlato di luoghi di culto, di luoghi religiosi, di difesa, protezione e valorizzazione di questo patrimonio culturale. Abbiamo parlato del cammino dell'Europa, cosa che facciamo in ogni puntata qui dell'Altra Europa, e oggi continuiamo questo cammino, lo facciamo con San Colombano, che fu il primo con un suo scritto ad esprimere il concetto di una singola entità europea unita dalle comuni radici cristiane che superava le individuali barriere etniche e culturali. Perché proprio con lui? Beh, lo chiediamo a Manuela Bertoncini, architetto, imprenditrice agricola e presidente dell'associazione culturale Green Butterflies. Buongiorno Bertoncini, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno Federico, ti ringrazio per averci contattato. Allora, come mai San Colombano e soprattutto che cos'è Peregrinus? Allora, noi siamo l'associazione culturale Green Butterfly, che ho il piacere e l'onore di rappresentare, è un'associazione di cittadini europei che sta sviluppando da anni il progetto Peregrinus, che si attua lungo il cammino europeo di San Colombano. Perché San Colombano? A noi come cittadini europei ha incuriosito molto la figura di questo monaco irlandese di origine druidica che lasciò la sua terra, come diciamo ai bambini, non per fare grande guerra, ma con il proposito di visitare l'Europa, di percorrerla. Per cui per noi lavorare sul cammino di San Colombano è lavorare su quella che è la traccia matrice e su quel cammino che in particolare racconta il cammino dell'Europa. Che itinerario è? Quali nazioni tocca? Allora è bellissimo, parte dall'Irlanda del Nord, da Bangor, attraversa la Francia, Germania, Svizzera, Austria, arriva in Italia, però coinvolge anche la Repubblica d'Irlanda, dove San Colombano ha visto i natali e dove ha compiuto parte della sua formazione. I Cavalieri di San Colombano d'Irlanda hanno infatti realizzato già un Turas Columbanus, cioè una cartina che illustra i luoghi legati al monachesimo irlandese a San Colombano dal sud dell'Irlanda al nord dell'Irlanda, quindi lega le due nazioni. Certo, Manuela, più volte abbiamo parlato degli itinerari culturali che sono tracciati nella nostra Europa e questo percorso potrebbe rientrare tra questi itinerari del Consiglio d'Europa? Allora, ad oggi esistono 29 itinerari culturali europei. Noi speriamo e confidiamo tanto che l'Europa voglia riconoscere il cammino di San Colombano come il 30° cammino culturale europeo. Perché? Perché avrebbe una forte valenza interna tra i cittadini europei, perché percorrere il cammino di San Colombano aiuta i cittadini europei a riscoprire pagine della nostra storia e perché anche un'ottima occasione per proporre quella che è la Destination Europe ai cittadini che provengono da nazioni al di fuori dall'Europa per conoscerci attraversando il cammino di San Colombano, visitando 7 nazioni si vedono paesaggi, culture diverse, perché la finalità di essere Europa non è essere tutti uguali, standardizzati, ma uniti nella diversità, che è il motto proprio dell'Unione Europea. Certo. Manuela, sei stata invitata poche settimane fa ad Expo proprio per trattare queste tematiche. Prima hai detto che siete un gruppo di cittadini europei di questa associazione Peregrinus. Chi vi spinge a fare tutto questo? Allora, noi all'interno dell'associazione trovi persone diverse, dal pensionato alla maestra, all'ingegnere, all'architetto, al contadino, persone apparentemente diverse, cioè comunque nella loro quotidianità sono diverse, a volte si esprimono anche con linguaggi diversi, in modi diversi. Ciò che ci accomuna appunto è l'essere cittadini europei. Alcuni di noi risiedono in Italia, altri in Irlanda, altri in Grecia, eccetera. E quello che ci accomuna è questa voglia, questo sentimento interno, radicato, essere cittadini europei, di condividere delle comuni radici. Ci è stato chiesto chi ce lo fa fare, no? Anche perché abbiamo vissuto molte esperienze in questi 4 anni. E chi ce lo fa fare? La volontà di provare a costruire insieme, prendendoci per mano fianco a fianco, un'Europa positiva, diversa da quella che vediamo oggi, triste, e che a volte non si ricorda di avere una ricchezza incredibile al suo interno, che sono i suoi cittadini e nella loro diversità. Quindi c'è la voglia di incontrarsi, di conoscersi. Lo sconosciuto è un potenziale amico, una persona che comunque non conosce ancora, e io veramente ringrazio di aver avuto l'intuizione di questo progetto progetto, di aver trovato il coraggio di condividerlo, di aver trovato tantissime persone in Italia e all'estero, sono migliaia oggi le persone che ad oggi hanno interagito e interagiscono in Peregrinus, perché mi ha dato una ricchezza che nessuno mi toglierà mai, cioè che è quella di aver incontrato tante persone in Europa e di essermi riscoperta attraverso questo cammino più cittadina europea. Greenbutterflies.it è il sito di riferimento per tutte le informazioni. Il prossimo evento, il 21 novembre, cosa succederà? Quella è un'avventura, è una bellissima cosa. Due campane gemelle, simboli di volontà di unione, fratellanza, voce di questi cittadini europei che si stanno muovendo su e giù per il cammino di San Colombano ormai da anni. Ecco, il 21 novembre alle ore 21 nella cripta di San Colombano a Bobbio noi consegneremo la seconda di queste campane, gemelle nell'intenzione, non nella forma. La prima, cosa particolare, è partita dal porto di Savona il 10 di marzo ed è sbarcata nel porto di Cork il 17 marzo scorso, nel giorno di San Patrizio, quindi tra l'altro sulla nave dal nome Grande Europa, ecco. Mentre il 21 noi in cripta consegneremo quest'altra seconda campana che ci è stata affidata dagli amici del Nord Irlanda, che ha suonato in tutte le sette nazioni ed è una voce che chiama raccolta i cittadini europei, dai diamoci una mossa, lavoriamo tutti insieme, un futuro diverso, una quotidianità diversa è possibile attraverso la libera scelta di ogni cittadino e la collaborazione. Grazie davvero a Manuela Bertoncini e complimenti per l'entusiasmo e la passione. Ciao e buon sabato. Ti ringrazio, ciao, grazie. Chiudiamo qua questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Pietro Lacorte in assistenza, insieme a Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo. Radio24.it è il nostro sito da dove potrete riascoltare il tutto. Ancora grazie, ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.